monito di Napolitano, non è da escludere il ritorno allo stragismo. Borsa in calo in vista del vertice europeo di questa sera. Fitch avverte investitori stranieri in fuga dai titoli d'Italia e Spagna. L'impegno del governo, stipendi uguali uomo-donna entro il 2016. Ancora scosse di terremoto in Emilia, sindaci preoccupati sui rimborsi per la ricostruzione. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Fra poco la pagina economica con un'altra giornata difficile per le borse europee. Ne parleremo davvero fra pochissimo. Prima invece andiamo a Palermo, dove si stanno tenendo le celebrazioni per i 20 anni dalla morte di Falcone e Borsellino. Ci sono tantissimi giovani, ci sono anche i ragazzi di Brindisi, compagni di Melissa, la ragazza morta sabato davanti alla sua scuola. E allora ripercorriamo la mattinata cominciando dalle parole molto dure del Presidente della Repubblica Napolitano. Già Falcone e Borsellino avevano chiarissima la visione della pericolosità del dispiegarsi della mafia sul versante della penetrazione nella vita economica e nei più sofisticati circuiti finanziari, e non solo nel Mezzogiorno, ma anche nelle regioni del Nord e in più vaste reti internazionali. E una pericolosità crescente ha via via acquistato in questo senso l'andrangheta calabrese. Ecco i nuovi fronti dell'impegno a combattere, colpire, debellare la criminalità organizzata. Che questa possa oggi anche tentare feroci ritorni alla violenza di stampo stragista e terroristico non possiamo escluderlo. Presente nell'aula bunker di Palermo anche il Presidente del Consiglio, Mario Monti, sentiamolo. Sono venuti alla luce alcuni pezzi mancanti della ricostruzione di quegli anni che devono essere analizzati fino in fondo, perché solo con la ricerca di tutta la verità noi renderemo pieno onore alla vita di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Diccillo e Antonio Montinaro. Non c'è alcuna ragione di Stato che possa giustificare ritardi nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Monti ha anche parlato di quanto accaduto a Brindisi. Tanti cittadini hanno voluto dimostrare che non si faranno spaventare dal terrore, ha detto il Premier. Queste dunque le voci da Palermo, ma sentiamo dal nostro Nino Amadore, che si trova proprio nell'aula bunker. Qual è il clima che si respira fra quanti sono lì, insomma, fra i ragazzi? Nino? Allora, sentite i ragazzi, non so se si sente il rumore dei ragazzi che stanno andando via. Qui la parola, diciamo, la parola chiave di oggi può essere commozione. Commosso il capo dello Stato, che ha fatto un richiamo molto forte, come avete detto voi, e ha messo in guardia da un ritorno della mafia stragista. Commozione anche di Maria Falcone, la sorella del magistrato, che ha ricordato il fratello, ha ricordato, ma soprattutto richiamato i ragazzi alla responsabilità e ha lodato i ragazzi. Commozione di Grasso, che ha viaggiato con i ragazzi questa notte, e tutti hanno richiamato Melissa, la tragedia di Brindisi, l'attentato contro la scuola. Il capo dello Stato ha detto: se voleva essere un modo per fermarci, non lo faranno, state attenti perché non ci fermerete. Più o meno è questo il senso. Grazie. del suo discorso. Grazie. Grazie a Nino Amadore, che ci ha raccontato qual è il clima che si respira all'aula bunker di Palermo. E noi invece adesso torniamo sull'inquieta giornata di borsa in attesa del vertice europeo di questa sera. Facciamo il punto in diretta con Deborah Rosciani. Clima pessimo sui listini del vecchio continente. Milano perde il 3%, Parigi in calo del 2,16%, Francoforte meno 1,76%, Londra in ribasso di quasi 2 punti, male la Spagna che perde quasi 3 punti. Cosa succede questa mattina? Che sta ritornando ancora la preoccupazione ferocissima sulla possibile uscita della Grecia dall'Unione Monetaria. Si è appreso questa mattina che la Banca Centrale Europea ha istituito un gruppo di lavoro sulla Grecia per prepararsi ad una possibile escalation della crisi del debito del paese. Lo riporta proprio la stampa tedesca, e questo stamattina ha destato naturalmente grande preoccupazione. A queste indicazioni arrivate da Francoforte si sono aggiunte quelle arrivate dal bollettino mensile della Bundesbank, che ha detto che la situazione in Grecia è molto preoccupante. Ha sottolineato che l'aiuto finanziario internazionale ad Atene non deve essere ulteriormente esteso, quindi la Banca Centrale Tedesca ha anche lanciato un monito: se la Grecia non dovesse mantenere i propri impegni sulle riforme, dovrà sopportarne le conseguenze, comunque un'uscita uscita dalla penisola ellenica dell'Eurozona sarà gestibile e le sfide che saranno poste alla Germania e all'Eurozona saranno una conseguenza significativa ma superabile. Sembra proprio una strada quasi tracciata da parte della Germania, quella dell'uscita della Grecia dall'Unione Monetaria. Quindi su questo l'Europa si muove di conseguenza. Poi, come avete detto nel giornale radio, Fitch ha certificato come gli investitori stranieri siano pesantemente in uscita dall'Italia e dalla Spagna dal punto di vista dei titoli di Stato, e a tutto questo risponde lo spread che stamattina ha ripreso ad alzarsi, siamo a 423 punti base. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani, ed è con una giornatina come questa che ci si prepara al vertice europeo di questa sera. Un primo passo, un giro di tavolo, tanto per fare il punto, per raccogliere le idee. Per di più a cena, dove si sa i discorsi possono essere seri ma non definitivi. Ma è possibile che questa sera i leader europei si ritrovino con lo stomaco chiuso, perché l'Europa non ha più tempo da perdere e se la Grecia uscisse dall'euro pagherebbero tutti. Però, per non creare aspettative, da Bruxelles puntualizzano che le decisioni concrete sulla crescita arriveranno solo durante il vertice di fine giugno. Al momento la rigidità della Germania è stata intaccata ma non ancora ammorbidita. Sui cosiddetti project bond, obbligazioni a progetto per finanziare infrastrutture in parte garantite dal bilancio europeo, e sulla ricapitalizzazione della Banca Europea per gli investimenti c'è già un certo consenso. Sugli eurobond invece nessuna concessione da parte di Berlino. Fino a quando i paesi dell'euro manterranno la propria politica di bilancio è escluso mettere in comune garanzie per le obbligazioni. Parole del ministro delle finanze Schäuble, anche se poi è il tedesco Oettinger, commissario all'energia, ad augurarsi che nessuno si opponga al principio degli eurobond. Se ne discuterà ancora, ma questa sera sarà la Grecia a tenere banco e la fuga degli investitori dai paesi periferici. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa il Parlamento europeo ha approvato la relazione in favore della proposta per l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie nell'Unione Europea. Ora la parola passa al Consiglio europeo. Accordo Fiat-Mazda per una nuova Spider in Giappone. Andrea Malan, Il Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Oggi Fiat e Mazda hanno annunciato un'intesa per la produzione in comune di una vettura Spider che, per quanto riguarda Fiat, avrà il marchio Alfa Romeo e che verrà prodotta nello stabilimento giapponese di Hiroshima. È solo un primo accordo. Le due aziende hanno già detto che esploreranno la possibilità di altri accordi di questo tipo in Europa. La Mazda quindi potrebbe essere il partner di cui Sergio Marchionne aveva parlato nei mesi scorsi per completare anche la presenza geografica di Fiat e Chrysler. Dal punto di vista dei giapponesi l'intesa serve perché Mazda ha chiuso in rosso l'ultimo esercizio e ha necessità di aumentare i volumi produttivi per ridurre i costi. Ultimo, ricordiamo che appunto trattandosi di una Spider con marchio Alfa Romeo, questa intesa riconferma l'impegno del gruppo Fiat per il marchio del Biscione, anche se la vettura non verrà prodotta in Italia. Grazie ad Andrea Malande, Sole 24 Ore. Noi ora andiamo in Emilia. Continuano infatti le scosse di assestamento fra le province di Modena e Ferrara, in particolar modo nella zona di Finale Emilia, epicentro del sisma di domenica scorsa, dove questa mattina è stata avvertita una nuova scossa di magnitudo 3.7. I vari campi allestiti nei 17 comuni più colpiti stanno ospitando attualmente oltre 5.200 sfollati, quasi 3.000 solo a Finale Emilia. Ma la situazione è sotto controllo, lo dice Giorgio Marchetti, vice responsabile della protezione civile di Finale Emilia. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Abbiamo 6 campi, un altro campo in allestimento, un potenziamento di quello degli alpini, ma è tutto sotto controllo. Stiamo arrivando alla fine di questa sistemazione. Ecco. Gli sfollati da voi quanti sono? Tra 2.500 e 3.000 sistemati nei campi. Si riesce già a prevedere quanto dovranno fermarsi nei campi? Assolutamente no, perché gli ingegneri dovranno cominciare in alcune parti, per cui siti produttivi stanno già verificando le situazioni dei capannoni, poi si comincerà con le case, le abitazioni e quant'altro. L'unica cosa adesso che si sono fatte è far entrare dove possibile gli abitanti nelle case per recuperare qualcosa assieme ai vigili e poi subito fuori. Nelle località colpite intanto si cerca lentamente di ripartire. A Ferrara hanno riaperto anche alcune scuole. Dopo i primi 50 milioni di euro stanziati ieri dal Consiglio dei Ministri, che ha dichiarato lo stato d'emergenza per le province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, fra i sindaci della zona c'è preoccupazione per la riforma della protezione civile appena varata, che potrebbe complicare o addirittura bloccare i risarcimenti. Sentiamo il sindaco di Sant'Agostino, Fabrizio Toselli, sempre al microfono di Maria Luisa Pezzali. Sono preoccupato, nel senso che da una parte sono soddisfatto del fatto che comunque ci sia arrivato un primo rimborso, però è chiaro che questa modifica ci lascia ancora, bisognerà capire, approfondire nei prossimi giorni che cosa realmente cambierà. Comunque un po' di preoccupazione c'è. Giugno è il mese in cui comunque i cittadini e gli imprenditori pagavano, insomma, a livello fiscale allo Stato le imposte dovute. Potrebbe essere già un primo segnale quello di bloccare questi pagamenti nei confronti dello Stato, in modo tale che, faccio un esempio, l'imprenditore che deve allo Stato una certa somma possa trattenere questa somma per ricominciare subito a riorganizzarsi. Il territorio vuole andare avanti, vuole rispondere, ci siamo tirati sulle maniche, però lo Stato ci deve comunque dare una mano. Si contano i danni anche nel Mantovano, dove i comuni colpiti sono 21. Oggi la visita del capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Palermo ricorda le figure di Falcone e Borsellino a 20 anni dalla morte. Il monito di Napolitano: non è da escludere il ritorno allo stragismo. Borse in calo in vista del vertice europeo di questa sera. Fitch avverte: investitori stranieri in fuga dai titoli di Italia e Spagna. L'impegno del governo: stipendi uguali uomo-donna entro il 2016. In questa seconda parte di GR24 ripartiamo dalla pagina politica. Vorrei ripartire da una buona notizia per le donne, l'avete sentita anche nei titoli, e ce la racconta in diretta da Roma Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, è così. Entro il 2016 uomini e donne dovranno avere lo stesso stipendio, ovviamente a parità di ruolo, e questa è la più importante novità che arriva dal DDL Lavoro in queste ore all'esame della Commissione Lavoro del Senato. Si tratta di un impegno assunto dal Governo che ha accolto un ordine del giorno dell'Italia dei Valori, un documento in cui si ricordano anche i dati europei in base ai quali le donne continuano a guadagnare in media ancora il 16,4% in meno dei colleghi uomini. E poi ne arrivano modifiche sui congedi di paternità. Nei primi 3 mesi di vita del bambino un giorno sarà obbligatorio, 2 facoltativi e concordati con la madre. Inoltre i voucher per le babysitter potranno essere usati anche per pagare le rate dell'asilo. Si tratta oggi del primo giro di boa per la riforma del mercato del lavoro, che nel pomeriggio intorno alle 17:30 approderà in aula, un provvedimento sul quale l'esecutivo potrebbe chiedere la fiducia in modo da giungere all'approvazione definitiva entro l'estate. Altra partita, quella sugli esodati. Poco fa il ministro del welfare Fornero ha ribadito che il decreto per i primi 65.000 ormai è pronto, l'ho inviato a Monti per la firma, ha detto Fornero, per me la partita è chiusa. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Partiti nervosetti dopo l'esito delle amministrative, stamattina la solita bagarre in aula, in diretta proprio da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Si cadono le prime teste nel PDL dopo la sconfitta elettorale. Sandro Bondi si dimette da coordinatore del partito, non perché si senta colpevole di qualcosa, spiega l'ex ministro dei beni culturali, ma per sottrarsi ad attacchi e denigrazioni personali che fanno parte della peggiore politica dopo aver letto di tutto. È ormai la debacle del Popolo della Libertà, il segretario Angelino Alfano sembra affiancato da un direttorio e Silvio Berlusconi minaccia di dire addio al vecchio partito e di voler guidare ancora lui una volta la nuova formazione. Il Cavaliere anche apre al PD per il doppio turno, da sempre avversato dal centrodestra, e per la nuova formazione ci sarebbero due nomi: Sì, Amo l'Italia, Uniti per l'Italia. Claudio Scajola propone invece di azzerare tutto e gli ex DAN minacciano di fare da soli. Tafferugli e aula sospesa poi a Montecitorio questa mattina dal presidente Gianfranco Fini, che ha espulso Maurizio Turco dei radicali. Sentiamo cosa è successo. Onorevole Turco, la richiamo all'ordine. C'è tutto il tempo necessario per prendere visione della formulazione degli emendamenti, anche perché si tratta in molti casi di riformulazioni. Onorevole Turco, la prego di allontanarsi dall'aula. Onorevole Turco, la prego di allontanarsi dall'aula. La seduta è sospesa. E per il momento qui da Roma è tutto a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. L'avete sentito nella prima parte di GR24 Brindisi, l'attentato di fronte alla scuola sabato è uno dei protagonisti della giornata palermitana in cui si ricorda la morte di Falcone e Borsellino, seppur ancora nell'incertezza di chi abbia compiuto quel gesto sabato. Allora noi ci colleghiamo con Brindisi, con l'inviato del Sole 24 Ore Mariano Maugeri. Buongiorno Mariano. Buongiorno a voi. Allora, le certezze sono ancora poche, sono ancora pochine, le procure intanto litigano, i giornalisti diffondono notizie che poi dopo un po' vengono smentite. C'è veramente molto caos, no? Intorno a questa vicenda. Sì, c'è grande confusione, era inevitabile che andasse così perché si sono precipitati da Roma tutti gli investigatori. Stamani è arrivato Francesco Gratteri della direzione investigativa appunto romana della polizia di Stato. Non dico che si brancoli nel buio, rimangono aperte tutte le opzioni. In questo momento sembra un po' tramontata quella del terrorismo perché le indagini sono in mano alla squadra mobile con un ruolo marginale della Digos, quindi questo indicherebbe che la pista privilegiata non è quella del terrorismo. Certo, sulla matrice estragista, come oggi ha ripetuto anche Napolitano a Palermo, non ci sono dubbi, è un pezzo di antistato, bisogna capire quale però, che sta destabilizzando il paese. La tua sensazione è che i tempi saranno lunghi? Ma sai, nelle indagini di questo genere non è mai facile fare delle previsioni, potrebbe esserci un colpo di fortuna, potrebbe esserci una testimonianza, ci sono i RIS di Parma al lavoro che stanno repertando e controllando tutto quello che è stato ritrovato sul luogo dell'attentato, quindi adesso comincia la fase più certosina in cui poi tutto va incastrato in un disegno generale. Certo, il movente ancora non c'è. E quando si intuirà quale sia stato il movente che possa aver spinto un essere umano a uccidere le ragazze così inermi. Staremo a vedere e speriamo che dunque i tempi non siano lunghissimi. Noi ringraziamo da Brindisi l'inviato del Sole 24 Ore Mariano Maugeri e andiamo ad un'altra vicenda. Le più deluse dalla decisione di ieri della Corte Costituzionale sono proprio le coppie che avevano sperato di poter cominciare a ricorrere in Italia alla fecondazione eterologa, che invece dovranno aspettare ancora del tempo oppure andare comunque all'estero come già stanno facendo. La nostra Giorgia Mennuni ha parlato con una signora ora che insieme a suo marito sta combattendo questa battaglia da quando in tarda adolescenza le è stata diagnosticata l'infertilità. Sentenza del ginecologo fu che potevamo accedere alle tecniche di fecondazione per poter avere questo figlio, solo che l'unica tecnica che noi potevamo fare era la fecondazione eterologa, in Italia era stata vietata. Quindi noi siamo partiti, siamo andati in Spagna, siamo stati a Granada 4 volte e niente, è andata bene solo una volta, ma poi io l'ho perso, quindi diciamo i tentativi sono andati sempre male. C'è stata la possibilità 2 anni fa di poter fare ricorso a fronte della sentenza di Bruxelles contro questo ultimo pezzo della legge 40 e noi abbiamo deciso di farlo perché non vedo per quale motivo io debba pagare le tasse in Italia ma curarmi all'estero. Il percorso è difficile, non è che ti svegli una mattina e decidi di fare queste cose, non è che noi quando ci è stato detto che potevamo avere un figlio con la fecondazione eterologa, il giorno dopo ci siamo fiondati in Spagna, ci siamo presi il nostro bel tempo a parlare le notti, a piangere, poi a ridere, a confrontarci. È stato presentato stamattina Le Corde dell'Anima, un festival che mette insieme libri e musiche che si svolgerà a Cremona. In diretta con noi Alessandra Tedesco. E sì Piera, è stata presentata la 3ª edizione di questo festival che si caratterizza per la sua originalità. Presenta infatti romanzi dove la musica è importante e organizza performance dove accanto ad uno scrittore che parla di letteratura c'è un accompagnamento musicale, qualsiasi tipo di musica, dalla classica al pop. Il festival Le Corde dell'Anima si svolge a Cremona da venerdì 1 giugno a domenica 3. Ci sarà l'autrice inglese Catherine Dana che parlerà in anteprima del prossimo romanzo in cui la musica ha un certo peso e poi David Nichols, l'autore di Un giorno, che dibatterà con Niccolò Fabi. Harry De Luca parlerà del legame fra i suoi libri e la musica, mentre il grande violoncellista Rocco Filippini suonerà un brano composto appositamente per lo scrittore. E poi ancora Donato Carrisi si esibirà esibirà in una performance con una band musicale, Gianni Biondillo con Ricky Gianco, Diego sì. De Silva con Marlene Kunz, e poi gli scambi di ruolo, Giorgio Faletti farà il cantante e lo scrittore Marco Malvaldi si esibirà come cantante lirico. Per tutte le informazioni www.lecordedellanima.it. Grazie ad Alessandra Tedesco, e questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Vi lascio al Giro d'Italia, prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.